Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno da parte di Filippo Glorioso e giornata splendida, insomma, un po' di sole finalmente dopo 10 giorni tetri di febbre 39-40, insomma, che ci ha messo distanti anni luce dal fare un programma radiofonico, dal condurlo, quindi siamo stati un po' lontani, siamo stati io e Filippo, siamo stati un po' lontani da voi, ma ripartiamo da oggi con un po' ancora claudicanti, voglio dire, perché questa febbriciattola di 39,5-40 lascia molto debilitati, soprattutto nel corpo, ma anche nella mente. Questa spossatezza dovuta anche all'assunzione di farmaci, tra i quali anche un farmaco particolare che serve, insomma, a far abbassare la tachipirina, che serve a far abbassare la febbre, ma poi di concerto il medico ti dà l'antibiotico, il quale a sua volta, visto che si mangia anche poco perché non c'è molta appetenza, ti costringe agli abbassamenti muscolari. Speriamo che adesso il tempo, insomma, si riprenda un pochino, abbiamo bisogno anche di un po' di torpore dopo tantissimo ghiaccio, ma subentra anche una forma di freddo interno, ci si abbassa anche nel morale. A questo aggiungiamo le ultime elezioni, adesso non sto qui a tediarvi con quello che è successo, lo sapete benissimo, i mass media ne hanno dato ampia dimostrazione. Personalmente, visto che sono reduce da una forte febbre, non ho avuto il tempo di informare alcuni ospiti per parlare a livello locale, a livello regionale, di quelli che sono quello che è il futuro della nostra regione, i famosi esodati, cioè personaggi famosissimi della politica dopo 40 anni, sentirsi essere messi fuori dal palinsesto politico, e non è una bella cosa. Tra questi Gianfranco Fini, lo stesso Di Pietro, insomma, e tantissimi altri, sia della regione Sicilia ma anche in campo nazionale. Ci sono dei grossi problemi. Lo dice anche Draghi, che è il presidente della BCE, ex presidente della Banca d'Italia, ai vertici europei, dice si pensi ai disoccupati. Silvio Berlusconi si rivolge al PD, ora serve stabilità, però non si capisce questo governo come dovrebbe costituirsi, da parte di chi, se del PD, se dei grillini. Ci sono le due cariche istituzionali dello Stato, una per la presidenza della Camera e l'altra del Senato, e poi l'elezione dulcis in fundo del Presidente della Repubblica, che sapete benissimo è a fine mandato, il presidente Napolitano, e prima di congedarsi è andato in Germania in visita ufficiale, dove non ha voluto assolutamente incontrare il futuro leader dell'SPD tedesco, che aveva ironizzato su Grillo e Berlusconi, dicendo appunto che gli italiani, offendendo in buona parte non tanto Silvio Berlusconi e Grillo quanto i milioni di italiani che hanno votato per l'uno e per l'altro, quindi dando degli imbecilli, dei clown fondamentalmente a una buona fetta di italiani che hanno così scelto di votare. Sicuramente Napolitano ha dato dimostrazione di coesione a livello nazionale, almeno per quanto attiene l'immagine dell'Italia fuori dai nostri confini, e si è quindi rifiutato di incontrare questo signore. Ieri sera poi a Porta c'era un giornalista affermato di un quotidiano tedesco molto importante, il quale ha detto lui è fatto così, spesso lo rimproverano gli stessi colleghi del Bundestag, che è la Camera del Parlamento tedesco, lo rimproverano, lo rimbrottano, però lui, insomma, sostiene sono fatto così, prendere o lasciare. E quindi non c'è nulla di nuovo nell'orizzonte, salvo un'idea che potrebbe essere quella di un appoggio esterno condizionato, voglio dire, a quelle che sono le proposte del governo che andrebbe a costituirsi, usiamo il condizionale sempre d'obbligo. I grillini hanno già sbattuto la porta in faccia al leader del PD, a Bersani, e adesso c'è un po' di preoccupazione. Dovremmo cercare di capire nelle settimane future quello che succederà. Comunque entro il 15 marzo qualcosa deve pure sbloccarsi, perché se no altrimenti sono guai seri, soprattutto per quanto attiene l'economia, e sapete già che lo spread, questo famoso spread, ormai siamo stati abituati a conoscere questo mostro sacro, che insomma imperversa nelle nostre borse, ma anche nelle borse europee e mondiali. Dobbiamo fare i conti anche con questo spread, quindi speriamo che la politica scenda a più miti consigli, evitando per quanto sia possibile gli inciuci, perché sennò gli elettori questa volta veramente, se hanno dato già una severa lezione, sicuramente manderanno a casa il resto di questi vertici politici ancora istituzionalizzati. Detto questo, io direi di dare la linea alla regia per gli, i consigli per gli acquisti, un brano musicale, dopodiché avremo un ospite importante in trasmissione, avremo una cantante, una cantautrice che sta calcando la scena ed è entrata un po' in tutti i computer d'Italia, perché pensate a 150.000 visualizzazioni su YouTube. Si chiama Mari Bosisio, nasce a Lecco il 12 febbraio dell'88, fin dalla tenera età calpestava e che dunque era scalpitante e testarda, muove i suoi primi passi nel mondo della musica partecipando a numerose manifestazioni canore della sua città. La vera gavetta però avrà inizio nell'estate del 2005, durante la quale Mara inizia a farsi notare per il carattere deciso e il timbro caldo, e poi la sentirete ed emozionante, aprendo i concerti di grandi artisti come Gatto Pancieri, Mino Reitano, Little Tony e Francesco Facchinetti. Subito dopo il diploma liceale arriva il trasferimento a Milano e l'approfondimento dei suoi studi musicali, che gli permettono di calcare palchi importanti come quello delle Scimmie o dello storico Blue Notte di Milano, e di intraprendere due tornei nazionali nel novembre 2008 e gennaio 2009 con lo spettacolo Stand Up a Gospel Revolution e nell'ottobre-dicembre 2009 con lo spettacolo Stand Up The New Revolution, entrambi prodotti dalla star internazionale del gospel Cece Rogers. Ci sono tantissime altre situazioni. Finalmente arriva con un CD dal quale sentiremo il brano che è più cliccato, dunque il titolo del CD è Nessun Dialogo. Invece il titolo del brano è Non Basterà. Intanto ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, al rientro brano musicale e poi sentiremo Mara Bosisio. Linea alla regia. Non sono la ragazza di Panema, non sono Angie, quella dei Rolling Stone. Non sono la Francesca che non era, non sono Michelle, je suis très bien ensemble. Non sono Berta, quella che filava, non sono Gloria che mancò nell'aria. Non sono Alice che guardava i gatti, non sono Sara, non mi sveglia primavera. Nessuno ha scritto mai una canzone per me, non perché non sia speciale, ma perché tutti quelli che sono stati con me non sapevano cantare. Ho avuto un avvocato che mi ha dedicato un suo divorzio, un contadino che ha dato il mio nome ad un consorzio, perfino un prete che pregava tutti i giorni per me, e un carcerato che si è tatuato il mio nome su di sé. Forever I love you, forever I love you. Non sono Laura, quella che non c'era, non sono Sally, senti che bel rumore. Non sono Giulia, quella che vibrava, non sono Anna, quella che lui vuole. Non sono Teresa con il suo fucile, non sono Mary, picchiata dal papà. Non sono la ragazza di Panema, non sono Guajira, Guantanamera. Nessuno ha scritto mai una canzone per me, non perché non sia speciale, ma perché tutti quelli innamorati di me non sapevano cantare. Ho avuto un muratore che costruì per me un palazzo intero, un filosofo che mi teneva al centro del suo pensiero, uno scienziato che intitola a mio nome una teoria, un corridore che pensando a me trovava tutta l'energia. Forever I love you, forever I love you, I love you. Ho avuto un giornalista che mi dedicò un editoriale, un calciatore che per me giocava in nazionale, un finanziere che mi portò un libretto al portatore, e adesso te, e ci dedichiamo allora rientriamo in studio dopo i consigli per gli acquisti. Parlavamo di questa artista che insomma ha una voce, a vederla poi sul palco somiglia un po' a Tina Turner, insomma ha un bel timbro di voce, secondo me non esplode abbastanza, cioè la tiene un po' ingabbiata, ma ha dei brani veramente straordinari. E all'attenzione in questo momento di circa 15.000-20.000 persone che stanno cliccando tutti i giorni su YouTube per ascoltare e vedere il video di Mara Bosisio, ma soprattutto di ascoltare questo brano che il cui titolo è Non basterà, che è tratto dall'album il cui titolo è Nessun dialogo. Dovremmo tra poco averla in diretta radiofonica, se è possibile intercettarla, che purtroppo lei vive a Milano, si sposta da uno studio all'altro con il telefonino, quindi beccarla non è semplice. Intanto volevo darvi una notizia che riguarda un personaggio che abbiamo avuto anche ospite qua in trasmissione, l'avete sentito ieri sera nei telegiornali nazionali, la scalata del re del catering. Stiamo parlando dello chef Natale Giunta, il quale è stato oggetto di attenzione da parte di alcuni malavitosi, i quali gli avevano chiesto 5.000 euro di rack di estorsione, quindi prima di Natale e prima di Pasqua. Il buon Natale, insomma, dice, io pago giustamente un sacco di tasse l'anno verso lo Stato, non ho nessuna intenzione di pagare ulteriori aggiuntive per quanto attiene appunto il mantenimento di questi signori, e quindi li ha denunciati. Dopo la denuncia è scattato il blitz da parte dei carabinieri e sono stati tratti in arresto 4 persone. Certo, a Natale è stata anche, a Natale Giunta è stata assegnata anche una scorta, perché capite che una denuncia del genere può comportare anche un reverbero in termini di sicurezza personale. Ci auguriamo che così non sia, e che comunque insomma non è giusto andare a chiedere soldi a chi lavora tutti i giorni, ha delle parcelle già abbastanza gravose da pagare verso lo Stato. Sapete che c'è una pressione fiscale non indifferente, se ne parla tutti i giorni sia nei dibattiti televisivi, ma se ne parla anche sui giornali e soprattutto sul Sole 24 Ore. Potete capire le difficoltà economiche che in questo momento stanno colpendo l'intera Europa, ma soprattutto il centro-sud Italia. Ci siamo un po' quindi ci siamo un po' resi conto della gravità oggettiva e soggettiva che gira un po' in lungo e largo. L'altra notizia ancora di difficoltà, parliamo di un Papa che era entrato nel soglio pontificio in punta di piedi. Stiamo parlando di Papa Ratzinger, il quale per sua indole, essendo così timido, quasi innocente su molte situazioni, dopo circa 8 anni di reggenza della Chiesa di Roma, ha ben pensato, ed è mi pare il 7º o 8º caso, non riusciamo a metterci in contatto, speriamo di farlo presto, altrimenti è veramente un guaio, nel senso che perdiamo l'opportunità di sentire una canzone straordinaria, ma purtroppo i mezzi tecnici quelli sono, e quindi bisogna avere un attimo di pensare. Dicevo, Papa Ratzinger è l'ottavo Papa, ma il più ricordato in questi ultimi tempi è stato Papa Celestino V, il quale, essendo stato costretto ad assumere il massimo compito di vescovo della Chiesa di Roma, dopo un po' di tempo si pensò bene di dimettersi, e quindi così fece Papa Ratzinger, il quale si è dimesso non sicuramente per le stesse problematiche che ha avuto Papa Celestino V, ma semplicemente perché comunque l'anzianità, le patologie che il Papa ha, non gli consentono più, vista l'età, 88 anni, di affrontare viaggi, di affrontare problematiche e tematiche che la Chiesa oggi ha. Molti hanno detto che si trattava del fatto dello IOR, si è parlato anche delle pedofilie che hanno colpito soprattutto il Nord America, ma credo che subentrino anche altri fattori che riguardano esclusivamente la sfera emotiva, la sfera personale di Sua Santità, di Papa Benedetto XVI. Vedremo chi sono gli ultimi, chi saranno i papabili candidati una volta che si vanno a chiudere in conclave, appunto sotto chiave, il termine latino vuol dire questo, e vediamo chi sarà il futuro Papa. Si paventa un Papa nero, si paventa un Papa che viene dai paesi, insomma dalla Cina, dall'Indocina, da quelle parti lì, però ancora tutto da stabilire. Intanto ieri ha dato le ultime sue direttive alla Curia Romana, dopodiché in elicottero oggi partirà alla volta di Castel Sant'Angelo, dove poi insomma si fermerà in preghiera senza più avere alcuna apparizione in pubblico. Così è la volontà del Papa, bisogna rispettarla. Sicuramente è stato un atto di coraggio e molti dicono dovrebbero farlo anche i politici. E andiamo ancora avanti con un'altra notizia. Ci siamo, allora la notizia ve la do dopo, perché abbiamo finalmente la cantante Mara Bosisio che dovrebbe essere al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Oh, finalmente Mara, ciao, grazie per essere intervenuta ciao. In trasmissione. Grazie a voi per l'ospitata. Allora, io ho dato lettura un po' del tuo excursus artistico, no? Il tuo curricula. Sì. Si parla di grandi concerti, si parla di grandi cantautori come Gatto Pancieri, al quale hai aperto il concerto, si parla che già in fasce tu cominciavi a strimpellare, a ballare dentro la pancia di mamma. Carattere forte, dice la tua biografia, ma dice anche che sei una donna coriacea, combattiva, e io ti ho un po' fatto una similitudine con la grandissima Tina Turner, no? Sul palco io ti vedo in questo modo, te l'ho sempre detto. Allora, sì, diciamo come impatto di energia ci potremmo assomigliare molto. Dopodiché cosa fai? Tu vai a Milano e ti vai a iscrivere in accademia, dove frequenti e studi naturalmente musica, scursi di composizione, perché tu sei una cantautrice, questo bisogna dirlo. Come siamo arrivati a fare il primo CD? È costato tanto sacrificio, perché i tempi non sono belli purtroppo, ahimè. Assolutamente. Soprattutto nel campo musicale. Sì. E quindi parliamo di questo tuo primo sudore. Sì, è stato un percorso molto casuale, nel senso che dopo essermi resa conto di avere comunque tra le mani un po' di canzoni che avevo scritto nel corso degli ultimi anni, sì, ho deciso di concretizzare, diciamo, un progetto tutto mio, dando valore appunto al percorso che avevo deciso di intraprendere, e quindi prima appoggiandomi ad alcuni amici, poi conoscendo collaboratori che tuttora fanno parte di questo mio progetto, sì, e hanno ampliato il mio team. Mi sono autoprodotta, appunto perché essendo un periodo veramente difficile, se uno vuole fare qualcosa, forse è il caso, oggi come oggi, di rimboccarsi le maniche e di partire da se stessi. Ma hai avuto una grande soddisfazione, Mara, perché tu sei su YouTube, sia il brano, no, che anche il video è su YouTube, e quanti migliaia di click sono arrivati sul tuo... Siamo arrivati a più di 15.000. Diciamo che è un bel traguardo per una persona che si sta affacciando per la prima volta in questo panorama digitale musicale. Ecco, c'è una parola che mi ha molto colpito, che poi dà il titolo, no, del tuo CD, che è Nessun Dialogo. Sì. Questo Nessun Dialogo è riferito alla società di oggi, che è così scomposta, tutta frammentata, chi corre qua, quindi non c'è possibilità neanche di guardarsi negli occhi e poter, ecco, dialogare. È riferito a questo o è riferito a un discorso più di cuore, di amore, in senso generale? È riferito a tutte le situazioni che ti possano dar fastidio in qualche modo, che ti possano mettere a disagio, che possano darti dei limiti, delle insoddisfazioni, quindi da un punto di vista molto più generico e sociale, all'impossibilità di avere di avere il piacere di riscoprire le piccole cose, i piccoli piaceri della giornata, come potrebbe essere benissimo sedersi, avere del tempo per dialogare con le persone che ami, a cui vuoi bene, con cui condividi la tua giornata, piuttosto che tematiche un po' più personali legate alla sfera sentimentale, piuttosto che anche a fattori di censura, seppur siamo una società ormai all'avanguardia e con differenti tipologie di comunicazione, ormai siamo in contatto con il mondo intero, però sovente ci sono ancora delle difficoltà di dialogo limpido e aperto, senza censure, senza imposizioni da parte di controlli mass mediatici piuttosto che altro. È un po' un voler esorcizzare un disagio, un po' un voler ricordare l'importanza delle piccole cose, delle piccole grandi cose. È un grido di denuncia in musica, ecco. Ti fermo un attimo, tu sai quanto sì. Io apprezzi e stimi la tua persona, ma soprattutto l'artista che c'è dentro di te, le parole che metti e la musica, sopra gli arrangiamenti sono straordinari. Io sai che amo moltissimo e ascolto volentieri i tuoi brani, tra questi appunto Nessun Dialogo, che a me fa letteralmente impazzire, perché c'è ritmo, perché ci sono le parole, cose che non ho riscontrato. Io ho visto pochissimo Sanremo quest'anno perché non mi è piaciuta né la conduzione né tantomeno i testi che sono stati presentati a Sanremo, ma io sono un profano e quindi capisci che come profano non ho voce in capitolo. Ma chiedo a te, che sei una cantautrice, secondo te è stato un Sanremo che ha dato, poi una cosa importante, mentre la tua canzone, le tue canzoni, almeno il brano che citavo prima, è orecchiabile, è ascoltabile, te lo ricordi, no? Cioè, sì. te lo tieni dentro un po' come la musica degli anni 60, 70, 80. Negli ultimi tempi, a mio modesto punto di vista, ma lo diceva anche Adriano Pennino, che tu sei un grande compositore, un arrangiatore musicale di un certo spessore, diceva: i testi già dicono poco, la musica poi non, io non capisco, ma cioè, è possibile che non si possa scrivere più come fai tu? Ecco, se tu riesci a fare un brano ascoltabile, orecchiabile, bello, no? Come dire, nel senso che non è commerciale, punto e basta, ma anche, ha anche dei contenuti all'interno. Com'è che grandi cantautori non riescono a fare la stessa cosa che tu a 23-24 anni sei riuscita a fare? Ma io non credo che sia un discorso più mirato al non riuscire o meno. Io presumo che, per esempio, il Sanremo di quest'anno, poi c'è state diverse polemiche a riguardo, si è data più importanza alla ricerca di un qualcosa di diverso, alla ricerca di uno spessore tematico che va al di fuori delle solite dei soliti argomenti riguardanti l'amore o che altro. Sì. Io credo che proprio questa volontà di ricercare un qualcosa di totalmente differente abbia un po' spostato il focus dalla spontaneità e dalla semplicità, e appunto a discapito di quello che di cui parlavi tu poc'anzi, ovvero del fatto che magari le canzoni risultano quindi meno orecchiabili, troppo pesanti. Io credo che, così come faccio io, ci sono moltissimi altri artisti più o meno conosciuti che portano avanti comunque una spontaneità nello scrivere e nel comporre le canzoni, parlando di qualsiasi tipologia di tematica più o meno rilevante, più o meno sociale, più o meno individuale. Io penso che la musica ha proprio questo potere, ovvero quello di poter essere vicino a chiunque, poter toccare chiunque in qualsiasi tipo di argomento. E credo che quest'anno il Sanremo abbia un po' perso il valore della semplicità e della genuinità Forse sarebbe il caso di fare meno ricerche tecnologiche ed essere più semplice, essere più se stessi, e possibilmente Me sì, sarebbe il caso di un ritorno alla semplicità, senza voler per forza di cose essere originali, perché comunque la musica, bene o male, è già stata fatta, è già stata scoperta. Bisogna dire un'altra cosa. Fatto un po' tutto. Bisogna dire un'altra cosa, che Mara Bosisio, il cognome la mette un po' fuori, non viene centrata bene come origine, no? Lei ha il papà che è di Lecco, perché lei nasce in quella stupenda città di Lecco, proprio a due passi dalla io amo molto quella città, molto più che Milano, tu lo sai come la penso io su Milano. Sì. Milano sarà bella artisticamente, sarà una Milano da bere, da vivere, ma a me sinceramente una metropoli non mi piace. Invece ho conosciuto Lecco, ho avuto in quei pochi minuti la possibilità di visitare ed è un posto incantevole. Io ci abiterei volentieri, è stupenda, bella come città, ma è anche, voglio dire, un posto incantevole dove poter vivere, esatto, quando uno se lo può permettere, perché poi ci sono dei costi. Riconoscerlo, sì. Quello è. Però dall'altra parte Mara è meridionalissima, perché la mamma di Maria sì. è calabrese. La state vedendo sì, in sovrappressione nel video, in questo momento c'è la foto di Mara con questi capelloni lunghi, ricci. Neri. Sì, allora, Mara, sangue proprio meridionale, ecco. 50 e 50, come giusto che sia. Esatto. Allora, un po' meridionale e un po' settentrionale. È un dualismo straordinario che mette poi in moto delle persone che hanno dentro un carattere abbastanza forte. Beh, i calabresi, questo poi è bello, l'influenza crea e costruisce, quello bisogna continuare su questa strada. Dovremmo ascoltare il tuo brano. L'ultima domanda, sì, ma molto segnatamente la risposta. Nel tuo prossimo futuro cosa c'è? A livello artistico? spero di poter lavorare con la mia musica, spero di poter fare tanti live, tanti concerti più o meno grandi, spero di poter ampliare il mio gruppo di follower e di fan, e spero di non deludere gli ascoltatori e chi decide di seguire la mia musica e di seguirmi come artista. Io invece ho un sogno, vederti in un concerto, anche se col binocolo a distanza, neanche avvicinarmi, perché comunque sul palcoscenico sicuramente con Tina Turner, lei è una grandissima artista, è stata grande ed è grandissima, però tu hai dalla parte tua la gioventù, la forza di fare, la voglia di arrivare, e sicuramente hai le carte in regola per poterlo fare, te lo dissi tempo fa e quindi figuriamoci adesso. Allora ci ascoltiamo il tuo brano. Grazie. Il titolo è Ma figurati, non basterà, tratto dall'ultimo lavoro di Mara Bosisio, Nessun dialogo. Grazie Mara per essere stati con noi, in bocca al grazie lupo. Grazie a voi, crepi, buona giornata. Ciao, buon lavoro. Nessun non basterà. Silenzi rumorosi che ricoprono ogni suono, ladra di emozioni evanescenti come lampi in mezzo al tuono, insaziabile di sguardi che nessuno come te sa dare, implacabile tormento del mio cuore. Anche se non credi a quando dico che tu per me sei speciale, io sorrido e te lo ribadisco in questa semplice canzone. Mi lascio conquistare dall'effimera bellezza che traspare, così anche quando non sarai con me qualcosa mi può consolare. E non servirebbe un solo anno né un'eterna vita insieme per fermare ciò che non può rallentare, perché non basterà il tempo attorno a noi per questo amore che risuona tra di noi. Alterni tornano a dar voce a pensieri persi dentro al tempo, privi di una propria luce. Ma se penso a quelle cose che tu solamente mi hai insegnato, sorrido all'insensata smania di aggrapparsi a ciò che ormai è passato, perché non basterà attorno a noi per questo amore che risuona tra di noi, perché non basterà E allora, avete sentito che bella voce, che bella immagine, perché sicuramente se siete davanti al computer, insomma, avete visto che è anche una bellissima ragazza, una ragazza che sicuramente sa il fatto suo, che farà molta strada, brani molto belli, orecchiabili, e via via poi nell'arco della prossima settimana vi farò ascoltare altri due brani di Mara, perché sono brani veramente non solo orecchiabili, ma belli da ascoltare, belli da sentire. Volevo intanto ringraziare gli sponsor, oggi purtroppo... Ecco, adesso dice la regia, grazie, volevo ringraziare il fonico che oggi si è messo il cappellino da marinaio, insomma, e il freschetto si fa sentire, noi siamo persone anziane. Saluto Santi che come sempre si prodiga alla regia a farci fare della bella figura, perché un programma senza i tecnici non sarebbe possibile farlo, effettuarlo, lui invece si prodiga insieme al nostro editore che devo dire fa i salti mortali, perché insomma il cattivo tempo crea qualche fastidio ogni tanto e loro riescono a dare forza a tutto quanto e a portare avanti la trasmissione. Dicevo, tra poco sentiremo un altro brano. Se mi fai la cortesia, Santi, di mandare in onda di questo CD, c'è il brano che dà il titolo al CD stesso, e ascolterete, ecco, lì vi rendete conto veramente che potenzialità canora di musica e di presenza scenica può avere Mara Bosisio. È una ragazza che secondo me farà molta strada. Allora, un saluto allo studio della dottoressa Domizia Di Fazio a Castelbuono, perché si occupa naturalmente di odontoiatria, ma c'è anche la specializzazione in ortodonzia, è importantissimo, andatela a trovare proprio vicino al castello, sulla vostra destra c'è lo studio, gli orari, insomma, dalle 16 in poi la trovate lì, ma anche di mattina, e sarà ben lieta di darvi una mano nel sistemare i vostri denti. Poi bisogna ringraziare anche Expert di Angelo Cascino, lo trovate dove? Lo trovate a Lascari, sconti straordinari, rottamazioni, non avete bisogno di buttare voi il frigorifero e il vecchio televisore, ma basta portarlo lì ad Expert, loro ve lo ritirano, penseranno loro ad allocarlo dove va allocato, e comprate naturalmente il televisore nuovo e comprate la lavastoviglie nuova, la cucina, quello che necessita a casa vostra, con sconti veramente eccezionali. Expert lo trovate, vi dicevo, a Lascari. Poi bisogna ringraziare anche Cascino per lo showroom straordinario che ha a Termini Merese, dove troverete tutto per l'arredo della vostra casa, e dunque pensate al 1945, qualità senza età, non c'è età da Cascino, firme straordinarie e prestigiose come Cotto d'Este, Bimarmi Bimarmi, Zucchetti, Piazzetta, Giacomini, Cartel, dunque, firme, vi dicevo, veramente straordinarie. Allora, chiudiamo con un altro sponsor straordinario, che è la parafarmacia della dottoressa Guardì in via Dante Alighieri a Castelbuono, perché abbiamo firme straordinarie, Aveno, prodotti per il corpo, pelli sensibili, per chiudere poi con i prodotti per l'infanzia e quindi i presidi sanitari, che sono per chi ha degli infortuni sfortunatamente, come le sedie a rotelle, le stampelle e i girelli. Noi ci fermiamo qui. Ecco, ci fermiamo qui prima di darvi l'appuntamento per domenica per la differita. Oggi una puntata, devo dire, un po' veloce, perché la salute non mi consente di andare oltre, in quanto sono reduce da una settimana e passa di febbre altissima, e quindi il corpo si è un po' debilitato. Vi chiedo scusa di questo. La prossima settimana avremo molti più ospiti anche in trasmissione, quindi daremo uno spaccato diverso e più ampio di argomenti. Per quanto attiene adesso, io mi fermo qui. Vi ringrazio come sempre per essere stati con noi. Ringrazio Mara Bosisio. Adesso ascolteremo un altro brano di questa straordinaria interprete, Nessun dialogo, che dà il titolo al CD da dove è stata tirata fuori la canzone Non basterà. Questo è un brano che io adoro moltissimo, e auguriamo naturalmente alla bella e brava Mara di avere successo nell'immediato, e perché no, vederla anche nel prossimo Sanremo. Ringrazio come sempre la parte tecnica Santi Genovese e tutti quanti voi. L'appuntamento per giovedì prossimo, stessa ora, stesso programma. Ciao. Nessun dialogo, no, nessun dialogo, nessun dialogo, no. Zero battiti, zero pulsazioni, zero emozioni. Messo carta e penna, programma di informazione a cura di Filippo Glo-